È uno sguardo inchiassonato e celebrato, la peggiore arte, un'espressione che fa invidia al migliore dei soldati, una calma che si evolve fino al capolinea dell'odio e della violenza celebrata. Hanno affrontato un esercito che apparteneva allo stesso principio di umani che si scontravano senza tregua con il blues e trasportavano nel rituale i loro strumenti, le loro armi come se fossero delle bare. Spiazzati per cambiare. E c'è uno sguardo in chi ha sognato e decorato la peggiore vita. Un'espressione che fa irritare il miglior decorato patriota. Una festa con il sangue in una spugna di anime sudate spiazzati. Per cambiare, spiazzati, per cambiare. E se l'altro legava un vaso con una fascetta gialla, e poco dopo uno gridava al mio gelato, l'altro il mio geranio. Ed erano anni, anni che non si divertivano così. Hanno spiazzato parecchio, spiazzati per cambiare. Spiazzati per cambiare. Spiazzati per cambiare. Spiazziamoli per cambiare. Esagra sia!